Mi viene voglia di vivere a pensarti. Non ho per nulla intenzione di arrendermi. Faccio un po' il conto di questi miei 30 anni, di quello che mi è stato detto, di quello che sarò, di quello che sono adesso. Forse saresti fiera del mio andare. Chi lo sa se quello che mi dicevi ora lo puoi verificare. Artisti non muoiono mai, è solo un trucco che fanno gli dèi. Giuli, guardavi il mare sorridendo, lo stesso mare che ora sto guardando. Mi viene voglia di ridere a pensarci, per come andavamo vestiti, per i nostri aforismi. Dietro ogni grande paura c'è sempre una grande risata. Il maestro arriva quando l'allievo è già sulla sua strada. Sì, lo so che sei fiera del mio andare. Sì, lo so quello che dicevi, ora tu lo puoi verificare. Artisti non muoiono mai, è solo un trucco che fanno gli dèi. Giuli, guardavi il mondo sorridendo, lo stesso mondo.